Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Caro Oscar, alle 8 e 19 minuti, eccoci qui. E questo 13 luglio in diretta fino alle 9 e mezza. Sì, in diretta. Tra l'altro prima sai che mi è venuto, c'era una richiesta via sms per un santo da ricordare, mannaggia. Vabbè, dimmi santi, vediamo se c'è anche questo. No, me la sono perso. Dire la verità, oggi ne ho uscite solo due, perché la filza era tale che visto le vittime, la giornata, le cose di cui parleremo. Il primo è un imperatore, l'ultimo degli ottoni, Enrico II, imperatore. Perché imperatore? Beh, ci sono delle singolarità, no? Perché santo lui, santa la moglie Cunegonda, santa la sorella che sposa un re d'Ungheria, santo pure lui. Mm-hmm. Ecco, si scopre alla fine che l'ultimo imperatore degli ottoni era nella lotta per l'investitura per la Chiesa contro gli altri imperatori, e qui improvvisamente tutti santi in famiglia. Vabbè, però insomma, Enrico II. Poi un altro grande santo, Jacopo da Varagine, cioè da Varazze, che per chi è un appassionato di letteratura medievale è l'autore di una meravigliosa leggenda aurea, si chiama così, cioè un martirologio di santi che consiglio a tutti di leggere, coloro che vogliono capire come si scriveva tra la fine del 1200 e l'inizio del 1300 in Italia. Quindi che santo era? Vede, Santa Clelia Barbieri, esatto, Barbieri, la sì. Si festeggia oggi alle Budrie di San Giovanni in Persiceto, patrona dei catechisti bolognesi, e Silvia da Crevalcore chiedeva: Oscar, ricordami. Vabbè, l'abbiamo ricordata. Nel 1814 nasceva oggi l'arma dei carabinieri. Ah, l'arma dei carabinieri. E oggi. Nel 1971 nasceva Luca Bizzarri, che è un attore che mi sta simpatico. Beh, grande Luca Bizzarri. Prima o poi riusciremo a portarti qui a Radio 24 a parlare. Sappilo, Luca, anche se... ti facciamo anche gli auguri di buon compleanno. Oh, buon compleanno a Bizzarri. Nel 71, sì. Ha un anno in meno di me. Ah, vabbè, siamo quasi coetanei. Magari non voleva che dicessi l'anno, però vabbè. Dai, mica è una signora, insomma, si può dire. Si può dire. Allora, caro Oscar, noi parleremo di tante cose, parleremo anche di quale Islam abbiamo in Italia, perché è stata fatta anche una ricerca. Parleremo di comuni siciliani, morosi, che non pagano le tasse, però ovviamente dobbiamo iniziare da quello che è successo, la tragedia con 27 morti. Per la verità si dice per ora 23 salme, il problema è che si dice un po' sotto traccia, ma... insomma, i soccorritori non si sono trovati davanti a belle scene, no? E purtroppo non è come in un aereo in cui si sa quanti salgono su un treno. E quindi... che ci sono ancora, insomma, c'è un problema tra ricomposizione di parti dei cadaveri e identificazione davvero di una lista attendibile di chi stava sul treno. Ci sono, Oscar, anche tante polemiche, per esempio sul binario unico. Prima ne parlavamo, di prima di andare in onda, perché una larga parte della rete ferroviaria italiana è ancora oggi sul binario unico. Non solo in Italia, nel mondo. Migliaia e migliaia di chilometri. In questo non mi sento di sposare la polemica. Perché chi dice: ah, ma il ritardo per i fondi europei, benvenuti in Italia, il sessennio dei finanziamenti europei viene utilizzato o nell'ultimo anno o negli anni successivi, perché ricordatevelo tutti, i fondi strutturali hanno bisogno della quota di cofinanziamento nazionale, quindi anche quella perché c'è un'altra polemica: 180 milioni stanziati dall'Unione Europea per il raddoppio dei binari e non utilizzati. Oggi sui giornali si può leggere questa polemica, cioè previsti di utilizzo negli anni prossimi rispetto al sessennio europeo che scade nel 2014. Anche lì, sì, bene, dice, ma è una cosa scandalosa? No, in Italia è praticamente la regola. Ecco, secondo. Terzo, punto vero, gli impianti volti alla vigilanza del traffico in esercizio sulle rete del binario unico. Anche lì, quel sistema, cioè un sistema fatto con autorizzazioni telefoniche, è ancora legale nel nostro paese? Due punti, domanda. Sì. Sì, è così. Cioè, non è vero affatto che il più del binario unico in Italia abbia un sistema di sicurezza per il transito dei treni fatto con i sensori automatici di linea, per cui se ci sono due treni in direzioni opposte, automaticamente i sensori disattivano. Uno si ferma, ecco, uno si ferma. No, qui in questo caso si viaggia ancora per fonogrammi e telefonate, palette del capostazione e insomma semafori verdi che danno il via. L'errore umano, laddove la tecnologia è un po' obsoleta. Mi rendo conto l'angolo. Che è difficile buttare giù, dici, ma come viviamo ancora con questi tipi di sistemi? Per il momento viviamo ancora in alcuni tratti con questi tipi di sistemi, non tutti i tratti a binario unico, però in tratti a binario unico viviamo ancora con questi tipi di sistemi. Sì. Ergo, a questo punto bisogna capire l'errore umano, vedremo la procura di Trani che indaga e vedremo che cosa dirà. Purtroppo io non voglio dire la fatalità non esiste, è ovvio che ci sono delle ragioni, però forse laddove le tecnologie sono così obsolete è chiaro che la possibilità dell'errore umano diventa più ampia. La lezione è che bisogna accelerare verso nuove tecnologie. Vogliamo chiedere qualche lume a Carlo Scarpa, che insegna economia all'Università di Brescia, presidente di Brescia Mobilità. Buongiorno professor Scarpa, grazie per essere qui. Buongiorno, grazie a voi, è un piacere. Allora, che cosa possiamo dire? Insomma, oggi sui giornali, al di là del cordoglio, ovviamente si parla di queste due grandi polemiche: il binario unico, le tecnologie e poi i finanziamenti mancati per il raddoppio del binario unico. Cosa possiamo dire a riguardo? Sul tema del binario unico sono d'accordo con quanto dicevate prima, credo che forse la metà della nostra rete nazionale sia binario unico, per cui non possiamo raccontarci che è un'eccezione che deve essere assolutamente rimossa, per carità, meglio averne due che non averne uno, però non è quello il problema. Il problema è che in Italia purtroppo si investe poco sulle tecnologie, ci sono fondi limitati per queste cose, soprattutto in tratte della rete ferroviaria che sono considerate meno centrali, e ogni tanto purtroppo ci troviamo di fronte a situazioni di questo genere, perché l'errore umano è sempre possibile. Ma che tipo di errore umano potrebbe essere? Proprio c'è il dare il via a un treno quando... Una telefonata non fatta, una telefonata mal interpretata, una telefonata a seguito della quale qualcuno doveva schiacciare un bottone e ne ha schiacciato un altro. Sono tante le possibilità. La verità è che sono cose che possono avvenire, siamo uomini e gli errori li facciamo, almeno io li faccio nel mio piccolo, e non posso lanciare la prima pietra, per cui figuriamoci, il problema è capire se ha senso pensare che il responsabile di questo incidente sia un qualche capostazione che con un semplice errore ha falciato 27 vite o quelle che saranno alla fine. Il problema forse è proprio quello di cui si diceva, Oscar, cioè laddove la tecnologia è così obsoleta, va bene, il raddoppio dei binari è una questione più complicata e gran parte della rete ferroviaria è ancora binario unico, forse non bisognerebbe almeno investire nella tecnologia per non lasciare alla telefonata del capo stazione, che potrebbe avere anche un malore improvviso e non poterla fare, il destino di un treno, ecco. Sì, però ecco, per esempio, aggiungo anche questo: siccome ci sono anche polemiche relative al fatto che la Ferrotranbearia, cioè la società che ha in concessione la gestione di quella linea, è privata, no? È privata invece. Allora, per essere chiari, se andate a vedere la vita media del materiale rotabile di quella linea, di questa società, è incomparabilmente più recente, cioè i treni, no? Di quelli che girano per esempio per trasporto pubblico ferroviario pubblico, come quello della Cumano della Flegrea a Napoli, che hanno un'età media che va superiore ai 40 anni, tra i 40 e i 55 anni per essere precisi. Quindi sì, il privato doveva secondo me anche spendere di più in sicurezza, però non stiamo parlando, per essere precisi, di un tratto e di una obsoleti, società, certo, in cui tutto è obsoleto e cade a pezzi rispetto alla media italiana, tutt'altro. No, è la questione proprio di sicurezza, insomma. Ma cosa vuol dire scarpa che si funziona ancora per fonogrammi, per una tecnologia che è considerata di 50 anni fa, che però è ancora perfettamente legale in Italia? Sicuramente è una tecnologia vecchia, tecnologia tradizionale, quella basata sui capistazione, quella basata altrove per altre questioni sui passaggi a livello, alcuni dei quali sono ancora azionati a mano, cioè queste cose che in Italia ci sono e che continuiamo a tenere lì come dei pezzi di archeologia industriale. Purtroppo sarebbe necessario invece andare su una strada molto diversa, che vuol dire però investire sia sulla rete sia sul materiale rotabile, perché è chiaro che dobbiamo avere una rete che dà delle informazioni e si interfaccia col materiale rotabile, che queste informazioni è capace di interpretarle e che recepisce il blocco quando la rete gli dice fermati. Per cui c'è un tema comunque anche di età delle motrici. Le motrici di questo, sicuramente ci sono situazioni anche molto peggiori, per carità, ho visto i treni, non sono treni terrificanti, però sono tecnologie che hanno 20, 25, 30 anni, quelle che vengono utilizzate lì nella zona di Bari interessata dall'incidente, per cui sicuramente bisognerebbe fare e si potrebbe fare di più. Il problema è che ci metti i quattrini per fare queste cose. È chiaro, i quattrini, insomma, sempre i soldi. Giustamente un'ascoltatrice dice: non ricordo altri incidenti con morti sulle ferrovie italiane. No, nel 2005 a Crevalcore, per esempio, ci furono 17 morti proprio anche lì, su un tratto a binario unico. E poi ci sono stati ovviamente anche altri incidenti, ma quello di Crevalcore proprio a binario unico, ogni dinamica è diversa, ma ricorda in qualche modo una dinamica simile. Ci sono in Europa, purtroppo stiamo parlando di migliaia di vittime con gli ultimi anni. Tra l'altro, i paesi che sono in testa e che innalzano molto la percentuale di vittime e il rato di incidenti ferroviari sono Germania, Polonia e Romania, pensa, con il maggior numero di incidenti molto gravi, con moltissimi incidenti ancora proprio, come ricordava il professor Scarpa, i passaggi a livello manuali. Esatto, è questo, cioè l'investimento in tecnologia, ma poi chi li mette. Intanto noi la ringraziamo, professor Carlo Scarpa, ricordiamo, insegna economia all'Università di Brescia, presidente di Brescia Mobilità. Ci sono degli ascoltatori, ci chiama Gianni da Brescia proprio. Buongiorno Gianni. Buongiorno. Io chiamavo soltanto per la mia esperienza che ho nel viaggiare sulle ferrovie svizzere, quando sono quasi tutte a binario unico, perché essendoci le montagne è difficile. E ho notato una cosa molto semplice: finché un treno non è in stazione, non parte l'altro. E certo, anche qui doveva capitare esattamente così, cioè finché il treno non era arrivato alla stazione di Andria non doveva partire da Andria il treno che è partito. È qui l'errore che bisogna capire. Ma dico, ma anche i macchinisti stessi, cioè, non avrebbero dovuto, indipendentemente dal segnale verde o meno, non vedo l'altro treno, sto fermo. Cioè, mi è sembrata una cosa proprio... E si siano scontrati fuori, dovevano sapere uno che viaggiava. Cioè, lei dice, visto che a livello regionale si conoscono benissimo gli orari, oggi sul Corriere c'è il racconto di un pensionato che dice: ma io l'ho visto partire da Andria e mi sono subito detto: ma come mai non è ancora arrivato quello da Corato? Dice: forse l'esperienza, Oscar, ci dice l'ascoltatore, degli stessi macchinisti che non vedono fisicamente il treno arrivato da Corato, dovrebbero dire: ma io non parto. Non me la sento di avanzare ipotesi, esatto, così adesso non penso che sia ipotizzabile che un macchinista, se fosse la serialità quella senza convoglio non parto, improvvisamente decide di violarla e di partire per azzardo. Lo escluderei da maniera automatica, non lo sappiamo. Non lo sappiamo assolutamente. Franco ci chiama da Ragusa. Buongiorno Franco. Buongiorno. Niente, io volevo dire una cosa molto semplice. È inutile, secondo me c'è una colpa, ci sarà penale, c'è una strage, tutto quello che si vuole, ma secondo me il problema è diverso, è una sfaccettatura diversa. Cioè, cosa andiamo a vedere ora, quando praticamente noi siamo tagliati fuori praticamente rispetto al nord, in tutti i sensi, la strada, la ferrovia, la sanità, c'è sempre questo abisso praticamente tra nord e sud. Considerate che praticamente si deve fare la TAV praticamente cose secondo me allucinanti. Qui noi siamo praticamente messi in una condizione praticamente disastrosa, ma questo è qualunque sia il campo oggi, questo, perché questo incidente sarebbe potuto succedere oggi, domani, dopodomani, così come gli ospedali. Però è successo anche a Crevalcore, appunto, nel 2015 e il 2005 in provincia di Bologna, quindi... Cioè la strage di Viareggio con oltre 30 vittime è in Toscana, cioè non è che fosse al sud e così. Però via. Lei dice Franco da Ragusa dice è un po' la conseguenza dell'abbandono del sud, questo sì, ci sta dicendo. Io posso capire una cosa, che ci dicono che siamo terroni, mi sta bene tutto quello che volete, ma fino a un certo punto, perché noi non possiamo vivere in queste condizioni se dobbiamo pagare le tasse allo stesso modo. Poi qualcuno ci dice che non è vero, ma non è così, noi viviamo in una situazione diversa. Ma no, cioè, beh, voglio dire, perché così? Perché è inutile che praticamente si fanno tratte con Sardegna e Però guarda, no, ma Franco, guardi, siccome ci dicono che ci chiama Michele da Trani, che abita nella zona, ovviamente. Michele, è così, cioè è una ferrovia quella disastrata, è una ferrovia. No. Michele, lei che ci dice? No, guardi, allora, grazie per ospitarmi. Io parlo dal sud, ma ripeto, per noi la Puglia è un sud diverso. Quella ferrovia è un orgoglio, è un efficiente, ci accompagna addirittura in aeroporto, ciò che non succede nemmeno a Linate. Quindi io capisco, ho sentito la palingenesi di un binario unico, quello è un errore umano, per noi quello è un orgoglio, cioè un orgoglio di efficienza. C'è la ferrovia. È un sud diverso, quindi siccome sento raccontare, noi la viviamo e comunque la frequentiamo, cioè, ed è un orgoglio, ripeto, ci accompagna, tra virgolette, ripeto, in aeroporto, ciò che non succede a Linate. Quindi volevo solo, al di là della tragedia immane, per noi cioè raccontare che non è il frutto di una rete disastrata. Come Michele, ieri, come tutti i giornalisti, non conoscendo bene, ho letto per ore i social locali. E di fronte alla quantità, per esempio, di testimonianze sui social di chi la prendeva tutti i giorni e diceva: ma accidenti, poi posso una linea di cui praticamente c'è la gente che diceva: io in 8 anni, ricordo questo, 2 sole volte treno in ritardo e così via. Cioè, in generale, la testimonianza che ci rende adesso Michele da Trani era molto comprovata sui social locali. Quindi cioè, non stiamo parlando di un pezzo, quindi esatto, di ferrovia o di sud abbandonato, di ruto, distrutto. A maggior ragione mi viene il sospetto che di fronte a magari a qualche investimento in più sulla tecnologia, cioè certo, non lasciare tutto alla componente umana. È chiaro che se tu lasci in mano alla componente umana è fonte di distrazione, di errori. Su questo non ci può che essere d'accordo. Va bene, Michele da Trani, la ringraziamo. C'è anche Vincenzo da Bari. Vincenzo, buongiorno. Sì, ciao Mila, buongiorno. Vincenzo da Terlizzi, precisamente. Terlizzi. Io ho usato tanti anni quella linea quando andavo a scuola alle superiori negli anni 90 e sicuramente non era così nuova come lo è ora. Era tutta a binario unico. Sinceramente mi ricordo pochissimi incidenti, ma di lieve entità. Come diceva il conterraneo di Trani, anche per me è una linea di eccellenza, nel senso che io devo andare da Terlizzi a Bari, prendo quel treno, in 25 minuti ci arrivo, con aria condizionata, in perfetto orario, cioè per me mi vengono le lacrime a pensare che una linea è chiaro, soprattutto per essere chiaro, se parliamo di sud, il disastro delle linee ferroviarie di trasporto locale sono la zona napoletana, ripeto, Circumvesuviana, Flegrea, Cumana, la Basilicata non ne parliamo, la Sardegna non ne parliamo e la Sicilia. Ecco, questo è vero. Che certo, è così. Però Vincenzo siamo qui a piangere, insomma, ascoltando ieri qualche trasmissione pomeridiana di quelle di intrattenimento sulle varie televisioni. Si sentivano queste voci di negatività totale sulla linea di Trani, invece non è così. Non è così, infatti, ma i nostri ascoltatori, lei, il collega di Trani lo stanno testimoniando. Grazie Vincenzo da Terlizzi. Dobbiamo andare un attimo in pubblicità, continuate a chiamarci se volete su questo, poi parleremo anche di altri temi, l'Islam in Italia, le tasse dei comuni siciliani, ma state con noi. State ascoltando un programma offerto da Fresca Salumeria Beretta. Tanti salumi italiani, buoni, gustosi e già affettati. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci qui, caro Oscar. Allora, è un Oscar Gene, lo sai che è molto amareggiato per gli arresti di ieri a Torino, tra l'altro, per il salone del e per libro? Fiera Lingotto dopo l'Expo. Perdonami, anche qui ha ragione l'ascoltatore che dice nord, sud, però come vedi in questi baracconi pubblici non c'è il nord immune e il sud per me. Noi no. Purtroppo è così. A me anche questi arresti di Torino e l'Appendino, sindaco di Torino, batto le mani al fatto che dice bisogna fare piazza pulita, e ha automaticamente chiamato l'ex sindaco di Campania e dice dammi una mano, quindi anche con atteggiamento risvolto. Però cari ascoltatori, quando poi io vi dico lo Stato bisogna tagliarlo perché tutta sta roba pubblica, c'è poco da fare, è intrisa di queste robe qua, e mi dicono ah sei troppo col taglio ideologico. No, ogni giorno, mentre tutto questo si decide ogni giorno, ci abituiamo a considerarlo ordinario ed è invece un disastro, le cavallette sono dovunque, questo è il punto. Allora, detto che i microfoni 800240024 sono sempre aperti, se volete parlare ancora chiamarci sulla strage in Puglia, insomma siamo qui, però vogliamo aprire una pagina dedicata all'Islam in Italia. Ci sono 1.600.000 musulmani in Italia, non tutti praticano la religione, molti saranno anche laici, però il governo italiano vuole insomma soprattutto vederci chiaro nelle cosiddette moschee, molte delle quali a maggior parte sono illegali di fatto, centri culturali. E allora è stata fatta uno studio, 12 studiosi coordinati dal professor Paolo Naso, che insegna scienza politica, è coordinatore del Master di Religioni e Mediazione Culturale alla Sapienza ed è con noi. Buongiorno professor Naso, eccoci. Buongiorno a tutti voi. Ci si chiede quale Islam si vuole in Italia. Ieri sui giornali è apparso qualcosa che il ministro Alfano chiede agli imam, alle moschee, ai centri culturali. Ci può spiegare che cosa essenzialmente l'Italia chiede all'Islam presente nel nostro paese? In sintesi, l'Italia chiede all'Islam di essere parte di una società ordinata, sicura, pluralista e laica. Quindi non chiede altro che di essere parte attiva in uno spazio pubblico nel quale le comunità religiose di diversa storia, natura, tradizione hanno un ruolo sempre più importante. E lo ha fatto attivando due dispositivi. Il primo è una consulta per l'Islam, quindi una sorta di camera costante di confronto tra le istituzioni e le varie associazioni islamiche in Italia. E questo già mi sembra un passo importante in un tempo nel quale invece, come dire, sull'onda di una cultura di pregiudizio, di diffidenza, si cerca di evitare il confronto, laddove invece il confronto si rende più necessario proprio per la situazione che talora si determina tragicamente come è accaduto in varie situazioni anche dell'Europa. D'altra parte però il ministro ha anche creato una sorta di consiglio di esperti, per così dire, che ho il piacere di coordinare, che ha la funzione, in ragione della lunga esperienza di studio, di contatto e di confronto con le comunità islamiche, di offrire delle indicazioni e degli spunti di azione politica, per così dire. E quello che è accaduto nei giorni scorsi è che un primo rapporto redatto da questo consiglio è stato consegnato al ministro, il ministro lo ha recepito e lo ha reso pubblico in una conferenza stampa. In questo rapporto si chiede che gli imam siano certificati da un decreto ministeriale e parlino italiano? Allora, diciamo che dobbiamo essere un po' più precisi, perché purtroppo noi ragioniamo sul diritto italiano in materia di libertà religiosa, che è frutto di una stratificazione molto complessa che parte addirittura dal 1929. Questo è quello che abbiamo, è una eredità pesante, molto critica. Già la data della legge sui culti è del 1929, è indicativa di un certo clima che oggi evidentemente è superato. La Corte Costituzionale ha variamente emendato questa legge di epoca fascista, ma insomma, quindi, questo è quello che abbiamo. Quindi, cosa si chiede? Si chiede all'imam di fare la predica in italiano, e questo diciamo che è una prassi già ampiamente realizzata. Parliamo di predica, non parliamo ovviamente di momenti rituali, intendo dire di preghiere, parliamo del messaggio pubblico. Si offre agli imam che lo vogliono la possibilità di ottenere una nomina ministeriale sulla base di questa legge, quindi niente di particolare, niente che non sia stato già dato. Una sorta di certificazione. Direi che semplicemente una nomina, nel senso che il Ministero verifica che il ministro di culto e l'oggetto abbia tutte le condizioni di regolarità, cittadinanza italiana, competenza, eccetera, per esercitare anche un controllo, detto questo, questo imam, per così dire, nominato, riconosciuto dal ministero, così come i ministri di culto di altre confessioni, finiscono per essere interlocutori naturali del ministero quando il ministero e lo Stato vogliano promuovere politiche di confronto e di dialogo. No, da qui gli altri dispositivi, quello di corsi periodici di formazione per i ministri di culto, non solo musulmani, provenienti soprattutto da realtà extracomunitarie, quindi in questo senso c'è una saldatura tra politica nei confronti delle religioni e politiche dell'integrazione, e poi c'è anche l'attivazione, la proposta di attivare dei tavoli locali in modo tale che il confronto sia sempre trasparente, aperto. Vabbè, insomma, tante però dice l'Osservatore, e si rivolge a Cristina Giudici, che è con noi, che da anni su giornali come Il Foglio ricostruisce pezzo per pezzo, moschea non autorizzata per moschea non autorizzata, regione per regione, le diverse anime e diverse presenze del nostro paese. Buongiorno Cristina. In realtà nella consulta in questi anni il governo italiano si è trovato spaccature del mondo islamico, coreis, non coreis, tra diverse associazioni, ed è rimasto imbarazzato a guardare, cioè tra la lotta tra chi si riferiva alla fratellanza musulmana egiziana, le tendenze salafite che molto finanziate la monarchia del Golfo fanno girare i predicatori più estremisti. L'impressione è stata di un'Italia che, come al solito dai vecchi tempi di Moro e Giovannone, negozia trattati di non belligeranza non dichiarati, quindi tiene gli occhi un po' più chiusi che aperti. Poi dall'altra parte c'è l'attività ufficiale, che è quella, ma in realtà di fatto c'è tutta una corrente di pensiero che documenta, come te, che le cose vanno un po' diversamente. Mi sbaglio, Cristina? No, non ti sbagli. Tra l'altro io volevo segnalare questa, che il documento io poi l'ho letto ed è sicuramente una insomma, le intenzioni mi paiono buone, mi paiono molto tardive più che altro, perché io vorrei un po' vedere un po' come si trasformerà, in modo, come si realizzerà, perché la maggior parte degli imam che io conosco non parlano italiano, e quindi voglio vedere come vanno a mandarli via di lì. E ci sono già apparse su alcune bacheche molto proteste, molto veementi, in cui molti imam hanno detto, soprattutto appartenenti a Lukoi, che sono tra l'altro anche rappresentati nella consulta, dicendo ci vogliono sorvegliare, e insomma si stanno un po' ribellando, quindi non sarà molto facile questa trasformazione, bisognava pensarci prima. L'unica cosa positiva che ho visto di questa, a parte diciamo insomma, le intenzioni che mi paiono molto buone, anche se tardive, è che è arrivata dentro il consiglio Marian Ismail, che non so se vi ricordate, io vabbè mi sono battuta abbastanza sul Foglio, era candidata a Milano, lì all'anti Sumaya, quella che è, insomma, è l'anti Fratelli Musulmani, che tra l'altro era membro della segreteria del PD e poi si è dimessa quando è stata eletta Sumaya Abdelkader, che magari sarà anche una bravissima persona, ma ha dietro una famiglia e una comunità oscurantista, e insomma la mamma pro Hamas, insomma tante cose che abbiamo già raccontato. Però diciamo la sua presenza, diciamo, è un po' una rottura, è sicuramente un segnale positivo. Il professore che ha appena parlato è una bravissima persona ed è una persona molto autorevole, mi fa molto piacere. Però io, che invece sono sempre, come sai, quella un po' vecchia cronista, quando cioè vanno, che entri vanno nelle moschee. 60 centri islamici, tu sei cronista, ma non sei vecchio. Vabbè, comunque, insomma, faccio ancora un po', credo ancora molto nell'andare sui posti, o come adesso si dice, boots on the ground, anche se non mi piace perché è un po' un termine militare. Però comunque io vorrei sapere come si risolve questo problema, perché se a Brescia ci sono 60 centri, la maggior parte sono pakistani e non ce n'è uno che parla italiano, esatto, e i kosovari a Chiari, vabbè, adesso sono stati un po', alcuni i più estremisti sono stati espulsi, però si trovano negli appartamenti privati, e ci sono alcune moschee dove alcuni centri islamici che dicono di non pregare neanche, non fanno entrare nessuno, e appartamenti dove bisogna citofonare per entrare. Vorrei capire come si cambiano questi imam. Ecco, poi c'è un altro problema che avevo segnalato l'anno scorso, poi l'ho ritirato fuori, però non capisco, vorrei, mi piacerebbe prima o poi chiedere a Alfano il conto di questo, che ci sono una serie di imami yemeniti che vengono, che sono stati formati, certo, in un'università fondamentalista, che vengono qua e che sono stati, hanno un visto per motivi di studio assunto da questi centri islamici e che predicano questo Islam oscurantista. Ed è su questo, Cristina, che io ho sempre avuto dubbio. Questa roba non avviene senza che ci sia una cosa politica dietro, nella realtà italiana, nella nostra esperienza di giornalisti. Dobbiamo dirlo, cioè non c'è un viaggio di yemeniti che vengono da quella formazione con quello che significa per un'alimentazione comprovata della catena qaedista prima e comunque salafita sempre, che possano avvenire senza che le autorità italiane A lo sappiano, B siano d'accordo. Questo, però, questo è l'enigma, io vorrei saperlo, cioè, o è distrazione, sono sprovveduti, sono dai, direttanti allo sbaraglio, non sono sprovveduti. Intanto chiediamo questo, professor Naso, nel caso ci siano imam che non parlano italiano, come in vari contesti in cui parlano solo l'arabo o comunque... È chiaro che noi diamo nelle direzioni di marcia e la direzione di marcia si accompagna non soltanto a un'intenzione... Cioè andrebbero, andrebbero sostituiti, andrebbero espulsi... No, vanno formati e va avviato un percorso. Noi abbiamo... Ma se si rifiutano, per esempio... un regime di convenienza nel quale l'imam stesso trova conveniente avviarsi in un percorso di integrazione. E se non lo trova, che si fa? Cioè, nel senso, la pongo di fronte a un caso e dice no, non... È molto semplice, non viene nominato dal ministero, resta quello che è, cioè una sorta di personaggio che fa il suo percorso, ma che non ha questo tipo di riconoscimento e non entra in questa filiera virtuosa delle relazioni nello spazio pubblico con le autorità italiane. Io vorrei però dire due cose. La prima, metodologica, nel senso che tra i nostri studiosi, nel Sarena me stesso, ci sono persone che stanno sul campo costantemente da 30 anni, cioè abbiamo le persone che hanno fatto le migliori mappature sulle moschee in Italia, e quindi noi non ragioniamo semplicemente su un Islam astratto, ma su un Islam in carne ed ossa. La seconda cosa che voglio dire è che la virtuosità di questo meccanismo è che il partner è coinvolto, nel senso che noi abbiamo la possibilità di dialogare con queste persone e di chiedere loro un rapporto davvero di impegno. Questo è l'elemento di novità, e da questo punto di vista Lukoi, con la sua storia che pure conosciamo, è molto particolare e pienamente parte di questo processo, con un impegno anche molto visibile. Ma è chiaro, l'impegno c'è, il problema trovare anche la ratio politica di questo, perché oggi c'è un elemento di novità che soltanto 2-3 anni fa non c'era, perché la tragedia dell'Islam fondamentalista, arrogante, violento, brutale, eccetera, è una tragedia che penetra anche nella comunità islamica, ferisce anche la comunità islamica, quindi c'è un senso di concretezza e vorrei dire anche di paura che probabilmente 4-5 anni fa non c'era. Molto bene, molto bene. Allora, noi ci dobbiamo fermare perché è tempo del giornale radio, caro Oscar. Sì, l'impegno c'è, però insomma, l'impegno c'è, se però uno l'impegno non se lo vuole prendere, non se lo vuole assumere, rimane sempre quella questione di fondo. Rimane comunque a fare quello che faceva prima, questo rimane, è chiaro, che non è una linea molto efficace. Esatto, rimane un imam senza il bollino del ministero, che gli frega, continuerà a fare le sue prediche, speriamo virtuose. Se andate a vedere il giro delle comunità kosovare, capirete che non frega niente il buon ministero. Comunque va bene. Comunque insomma, noi siamo qua a registrare gli sforzi e gli intenti positivi. Ringraziamo Cristina Giudici e ringraziamo il professor Paolo Naso. Andiamo avanti dopo il giornale radio parlando anche di debiti dei comuni siciliani. Sai che molti sono morosi, non pagano le tasse. Guarda, ma non avresti mai sospettato. I comuni non hanno i soldi, poverini. Sì, beh, ci aggiungerò che non capisco perché i dipendenti della regione siciliana però sono gli unici immuni in Italia dalla legge Fornero. Ne parliamo tra poco. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. con Alberto Orioli. Da oggi per i furbetti del cartellino non sarà più vita facile, almeno così promette il decreto attuativo della riforma Madia della pubblica amministrazione che è in vigore proprio da stamattina. I casi all'onore delle cronache sono numerosi e se ne verificano tutti i giorni. L'ultimo è il furbetto che timbra e se ne va con un cartone in testa per non essere ripreso dalle telecamere a circuito chiuso. Finora i licenziamenti per assenteismo sono stati limitati a poche decine di casi e per cambiare registro il nuovo decreto Madia punta su due strumenti, il calendario ultra rapido e sanzioni più pesanti anche per i dirigenti che fanno finta di niente. Quando un assenteista è colto sul fatto oppure viene filmato mentre timbra l'entrata e poi salta il lavoro, dovrà scattare un meccanismo che porta alla sospensione in 48 ore e al contraddittorio entro 15 giorni per arrivare appunto al licenziamento. Nel complesso la procedura dovrebbe durare un mese, non di più. È previsto anche il danno erariale e di immagine se la rilevanza mediatica del fatto è ampia. Entro 15 giorni dal misfatto, l'amministrazione deve segnalare il caso alla magistratura e alla Corte dei Conti, che può disporre le trattenute sullo stipendio a partire da un minimo di 6 mensilità. Il decreto punta anche a responsabilizzare i dirigenti, prevedendo sanzioni fino al licenziamento in caso di mancata attivazione tempestiva del procedimento disciplinare. L'inazione del dirigente fa partire anche la segnalazione alla Procura della Repubblica, appunto per valutare il reato di omissione d'atti d'ufficio. Sulla carta, insomma, è un provvedimento severo. Speriamo però che non basti camuffarsi con un cartone in testa per evitare le sanzioni. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Verona-Torino, trasferta d'affari. Io, un collega e il sistema Digital Radio. Ti va di ascoltare la radio? Certo, ma te la faccio provare in digital. Ne ho sentito parlare. Il suono perfetto che non ti lascia mai nemmeno in autostrada. E in più hai tanti contenuti speciali. Basta un autoradio digitale. DAB Plus. Chiedila al tuo concessionario. Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci qui, caro Oscar, in diretta fino alle 9.30. Eccoci qui. Siamo sempre noi. Ci chiamano un po' gli ascoltatori, lo sai? Ma questo è un segno di vitalità. La tragedia c'è, quindi sommuove un po' gli animi. Valerio ci chiama da Roma, buongiorno. Immagino per il treno, la tragedia del treno in Puglia. Sì, buongiorno a lei. Buongiorno, eccoci. Senta, io sono un collega giornalista che si è occupato per molti anni di protezione civile. Sì. E nell'ambito di questo tipo di tematiche era abbastanza ricorrente un concetto che è quello dell'oggettivazione della sicurezza. Vi faccio un esempio assolutamente illuminante. Nell'agosto del 2005, non so se ricorderete che dovette fare un atterraggio di fortuna in mare nel quale purtroppo morirono 16 persone, sì. Un volo della compagnia tunisina Tunter, come no. Era un volo charter. Questo aereo era partito da Bari destinato a Gerba e è finito in mare per mancanza di carburante. Allora, che cosa era successo? Non molto tempo prima l'aereo aveva avuto dei malfunzionamenti sull'indicatore del carburante. Gli ATR esistono di due tipi, quello un po' più corto, l'ATR 42, e quello un po' più grande, un po' più lungo, con più passeggeri, che è l'ATR 72. Sì. Questi sono quelli più diffusi. È un pezzo della manutenzione, non era quello giusto, eccetera. Quindi venendo esatto. Allora che cosa succede? Succede che quando fu cambiato l'indicatore del carburante, un tecnico non rispettò la corretta procedura ed ecco l'errore umano e montò sull'aeroplano A l'indicatore di carburante destinato al tipo di aeroplano B, per cui i piloti sono decollati avendo la convinzione di aver imbarcato una certa quantità mentre di carburante invece ne aveva un'altra. Ma lei cosa ci vuol dire, Valerio, per dire che l'errore umano ci sta sempre? L'oggettivazione della sicurezza si sarebbe potuta ottenere, e io in quel caso dopo due anni di battaglie l'ho ottenuta, semplicemente modificando il cruscotto degli ATR in maniera che il buco in cui devi infilare l'indicatore, casomai dovessi sostituirlo, abbia forma diversa. Valerio, lei ci racconta questa storia che riguarda un'altra vicenda per dire che cosa? Che l'errore umano si può abbattere a livello zero? Dire che possa partire da una stazione un treno senza che sia arrivato quello dalla stazione di fronte, dal momento che se un essere umano prima o poi può tecnicamente commettere un errore, prima o poi lo farà. Può bastare un'applicazione su uno smartphone da 300 euro, visto che adesso telefonini da 150 euro sono dotati di GPS e possono georeferenziare. Sì, allora, vediamo se sarà un errore umano. C'è anche da dire, Oscar, che per anni la situazione è andata e non c'è mai stato alcun incidente, e la tecnologia usata era quella, c'erano stati incidenti ma non così gravi, era quella di ieri, sì. Però giustamente insomma si può ridurre quasi a livello zero, che l'oggettivazione della sicurezza sia renda possibile elevare i livelli, non c'è dubbio. Il problema è, ripeto, le risorse per tutte le priorità. Sì. Ecco. I soldi, come sempre. Stefano da Padova ci chiama. Stefano, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno. Eccoci. Vale. Sì, no, interessante molto l'intervento che ha fatto il signore appena adesso, che ha puntualizzato molto bene certe cose. Allora, il rischio zero non esiste. Chi si occupa di sicurezza, di qualità, eccetera, sa che il rischio zero non esiste. Allora, adesso dire che il problema è il binario unico, secondo me è una fesseria, perché fra un po' allora diremo che le strade che hanno la doppia corsia non vanno più bene, perché uno può invadere l'altra corsia e causare un incidente. Ecco, quindi il problema dell'errore è l'errore umano sicuramente, a meno che non ci sia un guasto conclamato che poi verrà evidenziato, che peraltro i guasti debbono essere prevenuti attraverso manutenzioni preventive. Va bene. Quindi bisogna vedere se c'è un errore di progettazione oppure ma Stefano, guardi, questo sarà materiale. La procura di Trani ha appena fatto sapere, guarda, notizia flash, è stata istituito un pool di indagini, e quindi ci faranno tutte le indagini, verificheranno tutto il materiale, l'errore umano, tutte le varie possibilità. Anche perché la procura di Trani di solito è nota per non trascurare nessuno. Allora, però, vogliamo cambiare tema. Noi torniamo a chiamare un personaggio che è il presidente di Scossione Sicilia, che è Antonio Fumefreddo. Buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno. Che per la verità avevamo trovato, poi la politica lo aveva un po', come dire, rottamato, posso usare questa parola? Ci avevamo provato. In maniera brutale. Ma no, l'avevano avvisato. L'avevano avvisato. L'avevano mascariato, l'avevano punciuto. Però rimane presidente di Scossione Sicilia. Perché, cioè, è un combattente. L'Equitalia siciliana. Questo ci piace. Questo E che ha fatto ultimamente? Ha scoperto una serie di comuni siciliani che sono morosi, cioè non pagano. Quanti sono, Fumefreddo? Dunque, sono in tutta la Sicilia oltre 200 comuni che non pagano, o che hanno debiti importanti, per un valore di 42 milioni di euro. Cioè, noi dobbiamo incassare, abbiamo crediti per 42 milioni di euro che i comuni negli anni hanno accumulato e che non pagano. Che tipo di crediti sono? Cioè, ci faccia capire la tipologia media dei crediti. Guardi, le faccio l'esempio del comune, purtroppo, che è il record triste di questo è del comune di Catania, che è un comune importante, no? Come no? Ha da solo oltre 19 milioni di euro di debiti, che fotografa una situazione permanente nel tempo, cioè che il sindaco fosse democristiano, socialista, della prima repubblica, della seconda, del PD o di Forza Italia, non è cambiato nulla. Non pagano le tasse, i canoni demaniali, le tasse sulla spazzatura. E poi fanno le prediche ai cittadini che non pagano. E quello è il problema, ecco. Quando io dico che tutto questo significa un vulnus grave per la democrazia, come fanno i sindaci a chiedere ai cittadini di pagare le tasse se poi loro non pagano le tasse? Però dicono i comuni non hanno i soldi, sì, in genere dicono. Non è perché i comuni non hanno i soldi, no, i cittadini li stampano invece. che bel argomento. Ecco, secondo questo principio i cittadini che non hanno i soldi li esentiamo allora da pagare le tasse. Ecco, ma il punto è questo, che questo modo di procedere ovviamente negli anni ha causato interessi di mora che pagano poi di nuovo i cittadini. È chiaro, quindi una condizione di totale esenzione della politica, no? Cioè, noi facciamo un grande dibattito in Italia, per esempio, perché c'è una legge che dice che la Chiesa non deve pagare l'IMU, e poi non ci accorgiamo che senza alcuna legge, anzi in violazione della legge, i comuni non pagano le tasse. Esatto. Però Fumefreddo, noi le abbiamo chiamato un sindaco perché lei ha iniziato con i pignoramenti, credo anche ad Adrano, in provincia di Catania, il cui sindaco è Giuseppe Ferrante, che è con noi. Buongiorno, sindaco. Buongiorno a voi. Ha la possibilità, se vuole, è vero che gli è arrivato il pignoramento, se vuole tentare un tentativo, come dire, di transazione in diretta radio. Coram populo. No, è arrivato un pignoramento. Guardi, voi quanto dovete alla regione? Quanto dovete? Guardi, le cifre che sono state descritte dal giornale a me non risultano. Abbiamo già tentato un approccio con la riscossione Sicilia. Quanto risulta? Mi dica almeno quanto risulta. Intorno ai 750.000 euro. Che dovreste dare a... Voglio chiarire che questi sono debiti del passato, sì, che in questo momento i comuni che sono in grossissima difficoltà, un po' tutti quanti, abbiamo veramente difficoltà a pagare i debiti del passato. Vedi, Oscar, che non hanno soldi. In altri momenti, nei momenti delle vacche grasse, forse era opportuno che questo si facesse. Adesso i nuovi sindaci che si trovano in una situazione di disastro economico... Condono, un bel condono. Ma non è questo il problema, noi abbiamo già ci siamo messi in contatto con Riscossione Sicilia. E qua c'è il presidente Fiume Freddo, gli dica qualcosa, cioè faccia un appello. Ma guardi, al presidente posso dire che sicuramente lui sta facendo un buon lavoro, però deve anche comprendere che in questo momento lui conosce molto bene la situazione dei comuni siciliani, sa bene che dal 2009 ad adesso sono stati diminuiti quasi del 50% i trasferimenti ai comuni, quindi... Oggi lei sindaco sta chiedendo uno sconto in diretta. Ma guardi, io sicuramente voglio dire, penso che questa sia una cosa molto seria, che probabilmente questo lavoro da parte di Riscossione Sicilia andava fatto meglio nel passato. Oggi cosa posso chiedere a Riscossione Sicilia? Sicuramente quello che oggi è chiesto, un piano di rientro, comprendendo quelle che sono le difficoltà che abbiamo in questo momento per poter pagare. Oscar, visto che c'è uno che finalmente tocca, fa il lavoro... A noi tocca ricordare agli ascoltatori che le anomalie. No? Allora, quando nel 2005 arriva la riforma per cui nasce un apparato di riscossione incorporato nell'agenzia tributaria, quello che poi diventa Equitalia, la Sicilia continua a fare eccezione. Fino agli anni 90 la riscossione era affidata in Italia a società bancarie che si prendevano aggi a doppia cifra ed escludevano intere categorie, scandali pazzeschi finiti in tribunale, escludevano intere categorie di quelli che interessano alle banche non far pagare le tasse alla riscossione, clienti, imprenditori eccetera eccetera. In Sicilia lasciamo perdere che cosa hanno fatto coloro che avevano la riscossione, anche lì società bancarie eccetera eccetera. La Sicilia si dà una propria società di riscossione e negli anni quello che è evidente è che questa società di riscossione esclude dall'esecuzione, quindi del titolo di esecutivo per far pagare le tasse, intere categorie di soggetti, i politici, i comuni, gli enti regionali. Fiume Freddo, se vuole, mi può interrompere e dire che non è vero. Come si può tollerare che di fronte a questo la risposta sia però quelle erano le vacche grasse, abbiamo fatto i debiti, abbiamo fatto un mucchio di spesa corrente, adesso i soldi non ci sono, non paghiamo. Resto d'Italia, ripeto, non funziona così. No, ma anche a dire Riscossione Sicilia forse doveva fare questo lavoro nel passato e adesso che lo fa ha scoperto che ci sono dei debiti. Non però Fiume Freddo, risponda lei adesso, al sindaco. Adesso non solo sottoscrivo quello che dite, perché è così. Ma vede, questo quando si parla di antipolitica non bisogna pensare ai grandi scandali, così i cittadini si allontanano dalle istituzioni, non dalla politica, dalle istituzioni, perché non si capisce per quale motivo io oggi perseguirò come Riscossione Sicilia 10-15 poveri disperati facendogli il pignoramento e invece non debba procedere nei confronti della politica perché i sindaci sono amici di partito, cioè questo non è tollerabile. Cioè, no, in un paese europeo in cui ci sia un minimo di principio della democrazia, tutto ciò non è consentito. Allora, no, perché ricordiamolo, lei Fiume Freddo, quando metterà giù il telefono, purtroppo come discorso della Sicilia, dovrà fare dei pignoramenti a cittadini siciliani che non pagano ai le quali tasse. Come nel resto d'Italia non si guarderà tanto sul fatto che dice le cose sono andate male, le vacche grasse, le vacche magre, lo si farà nei limiti della rateazione concessa, ma non gli si potrà sentir dire non posso pagarti come invece fanno d'altra i sindaci. D'altra parte però Fiume Freddo non si possono neanche far fallire i comuni, quindi qualcosa... Allora, io trovo inammissibile che Catania, che ha questo debito così alto, non si sia ancora premurata, a differenza appunto del sindaco di Adrano e di altri primi cittadini, neppure a chiedere la rateizzazione. Cioè ci sono degli esponenti politici che si ritengono al di sopra della legge, questo non è consentito. I comuni, se non hanno la disponibilità, così come i privati che falliscono, è bene dichiarare il dissesto, è bene ripartire da zero, certo. Ma non è tollerabile che io debba pignorare i cittadini e non i comuni. Cosicché ho dato mandato di farlo, abbiamo bloccato le somme, chi verrà a rateizzare secondo legge avrà una corsia preferenziale, chi non lo farà pazienza, vorrà dire che anziché camminare con le auto di servizio cammineranno a piedi e anziché sperperare denaro come hanno fatto finora lo metteranno da parte per pagare anche le tasse. Cioè, quindi lei sta facendo proprio pignorare, cioè, e che cosa si può pignorare dei beni dei comuni, appunto le auto blu piuttosto che... Allora noi abbiamo, per esempio faccio l'esempio proprio della città più grande, ma vale per tutti Catania. I comuni, abbiamo bloccato le somme. Cioè, le faccio un esempio, i conti correnti su cui si riversano le somme pagate dai cittadini per la tassa sulla spazzatura che il comune non paga, e quindi siamo andati a bloccare quelle somme, abbiamo bloccato tutti i mezzi tranne quelli di prima necessità, è chiaro che non blocchiamo gli scuolabus o l'autobotte, abbiamo bloccato tutte le auto di servizio, quindi abbiamo appiedato come facciamo con tutti perché questo ridà fiducia ai cittadini, insomma la possibilità, ecco. Ferrante, sindaco di Adrano, qua il piano di rientro va bene, la rateizzazione va bene, ma Fiume Freddo dice non si capisce perché i poveri cristi, e lo dico così, siciliani debbano subire le angherie o comunque i giusti rigori della legge e voi no. Guardi, io intanto come politico non devo neanche un centesimo a Riscossione Sicilia, quindi non sono un privilegiato, parlo a titolo personale, quindi da questo punto di vista mi sento tranquillo. Sicuramente noi abbiamo delle grosse difficoltà, oggi i sindaci di ultima generazione, mi creda, dispetto che ne possono fare veramente ben pochi, anche perché io personalmente l'unica auto che abbiamo a disposizione per quanto mi riguarda 14 anni di vita e la utilizzo anche i funzionari, quindi voglio dire non so. Vabbè, però c'è questo debito pregresso di 750.000 euro, lei chiaramente, chiaramente noi tenteremo di pagarlo. Il presidente di Riscossione Sicilia sa benissimo che quest'anno la regione aveva promesso una certa cifra da mettere in bilancio, qualche settimana fa ci è arrivata una nota dove ci dicevano che di quella cifra potevamo contare solo sul 30%, quindi voglio dire facciamo salti mortali per cercare di quadrare i conti, e mi creda non è il momento degli sperperi, perché la disponibilità che abbiamo a livello di risorse è così poca che può bastare solo per pagare gli stipendi. Va bene. Oscar, tra l'altro tu ieri raccontavi, scrivevi sul Messaggero che c'è un'altra peculiarità della regione Sicilia sempre. No? Ce la vuoi spiegare? A proposito del fatto che non sarebbe più tempo per bruciare denaro pubblico, peccato che però invece i fatti dicano il contrario, perché come fa eccezione da sempre per la riscossione la Sicilia, perché ha una propria società, così incredibile a dirsi, i dipendenti della Regione Sicilia, degli enti controllanti, fanno la legge Fornero, per loro non è mai stata emanata nel nostro paese. Attenzione, ma non è stata recepita? Beh, non sono proprio, non è che sono un paese diverso. No, vabbè, sai, è vigente anche lì. Speciale. No, infatti uno potrebbe dire, ma allora sono tutte, c'è l'eccezione della legge Fornero per tutte le regioni speciali. No, non c'è. Solo per la Sicilia. Tant'è che per i dipendenti delle altre regioni, i dipendenti, non i vitalizi dei politici, i dipendenti si sono assolutamente allineati. La Sicilia però ha una propria gestione previdenziale separata dall'INPS fin dall'inizio, e per questo quindi emana leggi sui tetti previdenziali dei propri dipendenti come cavolo gli pare. Esempio, l'anno scorso a luglio si sono potuti prepensionare tutti coloro che avrebbero maturato entro il 2020, entro 5 anni dopo, i requisiti della pensione, ma non quelli della Fornero, quelli pre-Fornero, cioè si sono potuti prepensionare l'anno scorso con 7 anni e mezzo, cari ascoltatori, di contributi meno versati di quelli che si chiederebbero a voi oggi per avere una pensione non di vecchiaia ma di anzianità, con 7 anni e mezzo, 5 anni prima, e sono andati in pensione altri 1000, più di 1000. Tieni conto che ogni anno questa gestione previdenziale manda in pagamento trattamenti per più di 700 milioni, ha uno squilibrio di cui quello patrimoniale, a furia di andare in deficit e di non sprecare soldi con misure come queste, che i tecnici stimano superiore ai 9 miliardi di euro. Eppure la Regione Sicilia continua a fare così. Perché un qualunque italiano deve accettare l'idea che per lui valgono i tetti della legge Fornero e per i dipendenti della Regione Sicilia no? Perché non è nato in Sicilia. Ho capito, vabbè. No, comunque ci chiama Matteo dalla provincia di Verona. Buongiorno Matteo. Buongiorno signori, volevo solo dire infatti abolizione delle regioni a statuto speciale. speciale, basta. Buona giornata. Basta, è sintetico. Sintetico, ma chiaro. È chiaro, ma chiaro. Non so, Fiume Freddo, su questo argomento che è diverso, è diverso rispetto al tema per cui l'abbiamo chiamata. Insomma, fa parte, insomma, è un antico vizio. Il problema è questo. Intanto, lo statuto speciale non dovrebbe consentire comunque in materia di lavoro e previdenza una regolamentazione separata dal punto di vista legislativo, perché non c'è neppure una competenza concorrente. Esatto. Quindi la Sicilia non può farlo. Tant'è che la Corte dei Conti 3 anni fa ha tentato l'impugnativa e il governo di Roma però ha detto vabbè, evitiamo casini con la Giunta. Allora il problema è un problema politico, cioè, esatto. Qui c'è una classe dirigente burocratico-politica che si fa i provvedimenti amministrativi da sé, perché sono provvedimenti amministrativi, che non ha alcun interesse nei confronti dei cittadini, per cui il divario diventa odioso, e c'è soprattutto un popolo siciliano che, contrariamente a quello che si dice, che sarebbe un popolo focoso, cioè, è un popolo profondamente rassegnato. Non ci lamentiamo poi se non andrà a votare o se andrà a votare per... come protestando nell'urna, cioè, perché da destra a sinistra, passando per il centro, questa classe politica ubbidisce ai soliti vizi. Allora non è cambiato nulla, ma lo Stato, in questo caso il governo, ha il potere di intervenire e di impedire che questo buco previdenziale diventi la voragine. Che poi si tira. A proposito di voragine, le vorrei dire, ecco, potremmo allargarlo alle forestali, di cui pure avete parlato. Che in Sicilia servirebbero 6.000 uomini e donne della polizia locale, basterebbe spostarli lì, quindi farli lavorare. Invece bisogna mantenere questi forestali, bisogna mantenerli a non lavorare, e la politica li difende perché sono ancora un serbatoio. In Sicilia si ragiona ancora in termini clientelari. In è ogni un caso. Fatto culturale che c'ha di fatto, al di là delle ferrovie, al di là dei trasporti, c'ha di fatto separato dall'Italia. Noi, questo è un popolo, mi dispiace dirlo perché sono siciliano puro sangue, che gode e plaude quando riesce a fare Catania-Palermo in treno in 3 ore e mezza. Quando c'è la stessa distanza tra Milano e Bologna che viene percorsa in 1 ora e 6 minuti. Questo è il vero problema, è culturale, non bisogna piangersi addosso, occorre una rivolta morale di questa terra che io vedo lontanissima, però perché è una terra che si convince, insomma, che è abituata a sopravvivere e quindi di fatto a morire. Questo è il problema, per cui ogni vicenda diventa una vicenda, come dire, in Sicilia che si contrappone a millenni di storia, come se fosse immutabile. Però rassegnarsi, io mi rifiuto di pensarla. Però è anche la ragione per cui tanta gente se ne va, perché dice io in realtà non mi voglio rassegnare, ma qui il contesto non mi consentirà di vincere. In ogni caso, noi la ringraziamo, Antonio Fiumefreddo, ripeto, presidente di Discussione Sicilia, così come ringraziamo Giuseppe Ferrante, sindaco di Adrano in provincia di Catania, che ha tentato, insomma, anche una conciliazione. A differenza di Catania, esatto. Enzo Bianco, se sei in ascolto, qualcuno avvisi Enzo Bianco che almeno la rateazione, fate un po' di fate la buona creanza di rispondere all'appello giusto e sacrosanto di Fiumefreddo. Almeno dire ok, proveremo, come dice il sindaco di Adrano, sono le vacche magre, abbiamo ereditato questa situazione, faremo i salti mortali, cercheremo di pagare. Comunque io sto con Fiumefreddo tutta la vita. Se lo Stato non dà ai cittadini prove tangibili di non essere il primo ladro, allora noi lo chiamiamo ladro e lo vogliamo in galera. Ha bisogno di un oggi camomilla. Camomilla, ma no, l'ho fatto apposta. Però gente doppio. Che nell'amministrazione pubblica come Fiumefreddo tentano di fare le cose come bisogna fare. Caffè doppio o triplo, però va bene, cari ascoltatori. Da domani. Ciao.